La frontiera di Ras-Sidi è quella al confine tunisino con la Libia, da cui sono passati nei mesi scorsi circa 160.000 persone, che non sono che in minima parte libici, cioè erano tutte persone di nazionalità diverse, Erano gli prevalentemente emigranti in egiziane. Libia. Esatto, erano lavoratori immigrati in Libia che con la situazione, il degenerare della situazione in quel paese, sono scappati attraverso il confine, trovando dall'altra parte una sorta di Lampedusa tunisina, efficientissima, dobbiamo dire, un campo profughi dal colpo d'occhio veramente agghiacciante, cioè si parla di 20 ettari di tende in costante crescita, perché anche loro lì si aspettano che il flusso aumenti. Quindi scusa, tu ci stai dicendo, Maranno, vediamo se ho capito bene, che in Tunisia, dove stanno partendo i barconi di migranti verso l'Italia, che vengono poi accolti a Lampedusa con i problemi che sappiamo, comunque c'è un campo profughi per accogliere i profughi che vengono dalla Libia. Esatto, ma la cosa che a me diciamo, da italiana ha fatto anche un po' specie, ma mi sono anche un po', non dico vergognata, ma quantomeno imbarazzata, è stato considerare il fatto che loro hanno accolto, e quando dico accolto mi riferisco all'accezione più autentica del termine, cioè non hanno identificato, hanno accolto 160.000 persone mentre facevano la rivoluzione, cioè Ma teniamo presente. di che etnia? Erano dunque nei primi giorni quasi esclusivamente egiziani, ne sono passati 100.000 dal confine, poi prevalentemente dal Bangladesh, adesso sono cominciati a passare i rifugiati dell'Africa subsahariana, ci sono migranti del Mali, del Chad, Ecco, dove sono diretti questi? Una volta entrati nel mega campo profughi tunisino, non la torneranno maggior parte. certo ai loro paesi perché che tornano a fare? No, allora, la maggior parte sono stati rimpatriati nei loro paesi, che era diciamo, quello che almeno i profughi iniziali volevano, nel senso lavoravano in Libia, non potendo più lavorare lì, sono tornati nei loro Cioè, paesi. rimpatri coatti o ci sono andati? No, rimpatri organizzati dal governo tunisino provvisorio.